Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Benvenuti a Mebius, ciao Chiara. Oh, buonasera Federico, buonasera a tutti. Da che cosa incominciamo oggi? Incominciamo raccontando una mostra che non è mai facile, però essendo questa piena di contenuti, pur non avendo le immagini, riusciremo a raccontarla. Estinzioni, storie di catastrofi e altre opportunità. Si tiene a Trento, al Muse. Saprete che cos'è il Tilacino, che cos'era anzi, e poi parleremo di Alan Turing e di un misterioso turco che giocava a scacchi. E poi finiamo raccontando la scienza del magico, come la scienza tante volte possa spiegare quegli eventi che sembrano magici, ma in realtà magici non sono. Via allora! Grande mostra sull'estinzione, Chiara, dove? Sì, è al Muse, quindi al Museo di Storia Naturale di Trento, e nasce da un progetto di divulgazione scientifica sviluppato anche con il MIUR, quindi un progetto grosso. È sempre difficile raccontare le mostre in radio perché ovviamente le cose da vedere sono decisamente più interessanti, però ovviamente qui abbiamo deciso di parlarne perché c'è tanto contenuto, ci sono tante storie, tanti aneddoti, alcuni belli, alcuni un po' più tristi, però insomma, ovviamente l'evoluzione e le estinzioni fanno proprio parte della nostra storia. Quindi ce le racconta insieme a noi Massimo Bernardi. Benvenuto Massimo. Buonasera, grazie. Buonasera Bernardi, paleontologo e anche curatore di questa mostra che si è aperta da qualche settimana, ma stiamo tranquilli perché abbiamo tempo di visitare il Muse fino a un annetto dovrebbe durare, giusto? Confermo, sì, fino a giugno, fine giugno dell'anno prossimo. 2017, quindi abbiamo tempo. Oh, veniamo al dunque, là, ci sono tante storie, abbiamo detto, alcune ovviamente un po' più note, come la grande estinzione dei dinosauri e così via, invece altre che sono molto meno note, ad esempio se io dico il tilacino, l'uccello elefante neozelandese, l'alca, il chiurlottello, insomma Bernardi, queste sono storie che magari non tutti conoscono, ma che hanno una grande importanza per la storia evolutiva di tutte le specie. Cos'era il tilacino? Sì, confermo, hanno sicuramente molta rilevanza, ma soprattutto, questo è forse il tema centrale della mostra, sono rilevanti per noi uomini, Homo sapiens, e per ciò che sta succedendo al pianeta Terra. Da un punto di vista della grande storia della vita, dei milioni di anni, forse il tilacino citato ora e del quale volentieri vi racconto un paio di cose, forse è uno semplicemente dei tanti rappresentanti di un gruppo, i marsupiali, dei quali conosciamo tanti altri rappresentanti. Tuttavia per la nostra storia, per la storia umana, la sua storia, le sue vicende sono particolarmente significative. In due parole, il tilacino è diventato una sorta di simbolo tigrato dell'estinzione, nel senso che aveva delle cabine, delle bellissime righette brunastre, nerastre. E ce lo immaginiamo un marsupiale fatto come, non come un canguro. No. Immaginatevi un lupo, incrociatelo con un canguro e aggiungeteci un paio di righe brunastre sul dorso e ne esce uno strano animale davvero che è stato descritto come tilacino, Tilacinus cinocephalus. E che lì alla mostra si vede. Va e bene. Che gli è successo? Che gli è successo? Poveraccio, questo marsupiale viveva in Oceania e una volta raggiunto da Homo sapiens ha cominciato a declinare la sua diversità, il numero degli organismi che vivevano in questi luoghi ha cominciato inesorabilmente a tracollare. Siamo certi per colpa nostra, l'abbiamo cacciato intensamente fino habitat, ad estinguerla. Dalla sua casa. Certo. Il suo habitat cos'era? Australia? L'ultimo in realtà si è estinto in Tasmania, era noto in Nuova Guinea, insomma l'area è oceanica più in generale, ma l'ultimo tilacino, che poi è diventato anche celebre, gli hanno dato anche un nome, si chiamava Benjamin, è morto in Tasmania nel 1936. È l'ultimo abbiamo le immagini delle sue ultime giornate, insomma la vicenda si farebbe abbastanza triste, se non che all'interno della mostra, come per molte altre specie, cerchiamo di raccontare in realtà quanto sia stata sciocca la loro estinzione, piuttosto che raccontare i dettagli. Sciocca perché sono stati cacciati dall'uomo, per quale motivo? Sì, in questo caso probabilmente la voce in gran parte non confermata o comunque non sostenuta dai fatti realmente accaduti descriveva il tilaccino come un grande mangiatore di capi d'allevamento, insomma di pecore. Ovviamente dava molto fastidio e per questo è stato decimato. Non è detto che questa sia in realtà la ragione che ne ha portato alla definitiva scomparsa, però sicuramente diciamo che non stava molto simpatico agli allevatori e a molti altri imprenditori locali. E peraltro è interessante che oggi con l'arrivo del lupo nelle Alpi, lo stavo dicendo io, sembra un po' questa nelle storia. Alpi orientali si sentono, ci sono degli echi che purtroppo sembrano far rivivere un po' queste storie, ricordare queste brutte storie. Vabbè. Sì. Niente, in due parole l'uccello elefante ci vuole dire che cos'è? È un grande gruppo di uccelloni atteri, si direbbe, ovvero non volatori, immaginiamoci dei grandi struzzi sostanzialmente, che in realtà abitavano molte aree del nostro mondo, soprattutto l'emisfero meridionale, erano presenti sia in Oceania che in Sud America. E anche questi è stata colpa nostra? Anche qua abbiamo abbiamo contribuito enormemente alla loro decimazione. Sì, infatti tutte queste storie in realtà fanno parte di un capitolo della mostra nel quale sostanzialmente ci rendiamo conto, ci accorgiamo che il nostro impatto sulle faune e sugli ecosistemi si è fatto forte da decenni e da secoli. Senta, perché si è estinto il mammut? È successo circa 10.000 anni fa. Bene o male era un elefante come i nostri. Cosa è successo? Potremmo averlo ancora adesso con tutto il suo pelone? Probabilmente la risposta è no, oppure solo in limitatissime aree geografiche della Terra. Le vicende dell'estinzione del mammut sono molto complesse da ricostruire perché si sono sicuramente sovrapposti fattori diversi, concomitanti. Sicuramente un ruolo importante ha avuto il cambiamento climatico in corso, siamo alla fine dell'ultimo periodo glaciale e dunque stava cambiando intensamente il clima, insomma si usciva da una fase nella quale i ghiacciai coprivano quasi completamente le Alpi. E il mammut aveva bisogno di freddo. Esattamente, in questa fase stavano cambiando nettamente queste condizioni, dunque la fase richiedeva di sapersi adattare a climi in cambiamento molto rapido. Tuttavia è altresì probabile che un contributo importante, o forse si potrebbe dire l'ultimo colpo, l'abbia dato la nostra presenza. L'uomo, perfetto. Ci pensavamo di non avere colpe, questa volta invece anche per questo. È ancora più interessante perché ci dice che 10.000 anni fa, dunque non l'uomo moderno dotato delle ipertecnologie, ma anche l'uomo preistorico aveva sostanzialmente lo stesso atteggiamento che abbiamo oggi. Dunque la narrazione del buon selvaggio, per cui le popolazioni che vivono isolate e magari anche molto lontane da noi da un punto di vista temporale vivessero in armonia con la natura, e siamo noi invece aver assunto un nuovo atteggiamento, forse non è così in realtà supportata dai dati. Certo, è una vicenda intricata nella quale noi abbiamo giocato un ruolo probabilmente molto importante. Infatti Bernardi, diciamo che l'aggressività della nostra specie è non subisce cambiamenti nel tempo. Ora noi siamo tanti, insomma abbiamo bisogno di nutrirci e sappiamo quali sono le conseguenze, come stiamo un po' riducendo il pianeta e tutte le specie che vivono insieme a noi. Però prima non eravamo così tanti, non c'erano tutte queste esigenze, eppure eravamo aggressivi lo stesso nei confronti delle altre specie. Abbiamo avuto sempre o quasi sempre, diciamo, questo atteggiamento invasivo nei confronti delle altre specie e nei confronti delle specie a noi molto vicine, quindi altre specie di ominidi, e anche, se ci pensiamo, all'interno della nostra stessa specie. Gli uomini si fanno la guerra da sempre, dunque siamo aggressivi non solo nei confronti del, tra virgolette, diverso da noi, ma anche nei confronti di noi stessi. Va bene, allora invitiamo tutti, insomma, chi si fosse incuriosito a venire a sbirciare tra le sale del Muse questa mostra che, appunto, a parole sembra interessantissima. Anche io e Federico ci ripromettiamo di venirvi a trovare presto. Estinzioni, storie di catastrofi e altre opportunità. Grazie davvero Bernardi, buon lavoro e buon'estate. Grazie a voi, vi aspettiamo. Si estinguerà il traffico? Per il momento no. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Alan Turing, personaggio della scienza estremamente importante, strano, controverso, con vicende complesse nella sua vita. Ne abbiamo già parlato altre volte qui a Mebius e lo rifacciamo però oggi con Giorgio Chinnici. Buonasera Chinnici. Buonasera. Turing, l'enigma di un genio. È un libretto breve ma intenso, edito da Oepli nella collana Microscopi. Allora Chinnici, noi quando parliamo di libri, insomma, puntiamo a farli leggere, quindi adesso non tentiamo, che poi finisce sempre male, una specie di sintesi di tutto quello che c'è dentro. Ci sono un paio di aspetti molto interessanti che lei tratta nel testo e ruotano intorno a questa idea che nasce ai primi del Settecento, e cioè che se abbiamo una macchina che fa delle cose speciali, e quindi potremmo incominciare dal famoso il turco, che fa delle cose interessanti, allora vuol dire che questa macchina è un po' come il cervello. Che cos'era il turco? Si tratta dell'idea di imitare delle funzioni intellettuali dell'uomo, nel senso che la macchina è stata sempre pensata come un qualcosa che deve in qualche modo superare l'uomo, no? Cioè un bulldozer fa delle cose che le braccia umane non possono fare, l'automobile, certo, ma ancora prima il carretto, eccetera eccetera, delle cose che le gambe umane non possono fare. Però c'è un salto anche così concettuale quando la facoltà che si vuole imitare non è fisica ma è intellettuale. E allora il turco era un'idea di questo genere, cioè quale funzione intellettuale più spettacolare, più visibile, se non il gioco degli scacchi, no? Ora però il turco in realtà era un trucco. Venne in mente al barone von Kempelen di costruire una macchina a ingranaggi come quelle, ripeto, che nelle corti europee erano abbastanza comuni, in grado però questa volta di giocare a scacchi. Stranamente, ed aveva la forma di un turco, era un automa con questi abiti turchi e che stava sopra questa cassapanca dove c'erano questi meravigliosi ingranaggi all'interno. In realtà c'era nascosto all'interno una persona di piccola statura e di grande abilità nel gioco, un maestro del gioco, che all'inizio fu questo Josef Algeier. Allora, e se non sbaglio, poi dopo il barone faceva vedere dentro la macchina e questo qui era abilissimo nello spostarsi in un altro luogo, no? Esatto, era abilissimo non solo la persona che c'era dentro, ma proprio la maniera in cui era stata concepita questa cassa, per cui c'erano delle slitte mobili eccetera, l'abilità era di come era stata fatta, consisteva nel fatto che lui apriva uno scomparto alla volta, no? E quindi la persona si spostava dall'uno all'altro. Chinnici, si fermi qui perché la storia è bella, la racconta nel libro. Facciamo un salto di due secoli, ovviamente Turing ha un pensiero molto più complesso, però c'è un sillogismo che lei cita nel libro, no? Per cui c'è sempre una visione un po' meccanica, diciamo, del cervello. Sì, una visione meccanica che però è estesa ad una meccanica tecnologicamente più avanzata, cioè quella che l'elettronica, no? A un certo punto questo computer, cioè un oggetto che fa dei calcoli, non è più una cosa che fa dei calcoli ruotando delle rotelline, ma le fa per mezzo dell'elettronica e soprattutto poi di un programma, anche questo tra l'altro è un merito di Turing, l'aver distinto l'hardware dal software, eccetera, di un programma che gira su questa base elettronica, no? Allora, però quello che lui fa è semplicemente di calcolare. Quindi, come gli ingranaggi meccanici erano in grado di fare addizione e moltiplicazione, quello che il computer, nella sua veste primordiale, che fu diciamo dovuta anche a Turing, quello che fa è comunque di calcolare. Allora, il sillogismo che Turing sembra avere abbracciato è questo: tutto ciò la cui attività si può ricondurre a dei calcoli può essere imitata da una macchina. Il cervello è qualcosa che calcola e quindi il cervello può essere imitato da una macchina. Questo è il sillogismo. Questa è una tesi forte, poi dopo lei nel libro spiega anche che però arrivando ad oggi, non solo ad oggi, gli ultimi decenni, si è capito che invece questo aspetto così meccanico del cervello non c'è, no? E c'è una complessità molto più forte, insomma. Sì, la domanda è vero che il cervello è qualcosa che semplicemente calcola? Si deve a Turing l'invenzione, la definizione corretta, esatta del concetto di algoritmo, cioè di un qualcosa, di un procedimento che può essere ricondotto a un insieme finito di passi successivi calcolativi. Però, come lei giustamente ha detto, oggi questa tesi è ovviamente controversa, nel senso che ci sono molti indizi che, per dire, non è così, nel cervello, nella mente umana c'è qualcosa di più che del semplice algoritmo e quindi del semplice calcolo. Allora, ricordo il libro Turing, l'enigma di un genio, scritto da Giorgio Chinnici, edito da Oepli, collana Microscopi. Chinnici, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Adesso Chiara ed io vi parliamo di Scienza del Magico, un testo di Matt Kaplan, giornalista scientifico dell'Economist, edito da Codice e Le Scienze. Allora, che cosa vuol dire? Beh, Scienza del Magico cerca di mettere insieme tante cose che nell'antichità erano misteri, si pensavano fossero magie o cose di religione, e che invece in qualche modo riescono ad avere dei rapporti, e avevano, e hanno, con cose di scienza. Sì, sembra un ossimoro, in realtà sono delle spiegazioni scientifiche ad alcuni fenomeni che si pensavano fossero paranormali. Ecco. Oh, per esempio, le grandi predittrici, la Sibilla Cumana, quelle di Delfi, no? Che erano tutte donne e che lanciavano queste strane frasi enigmatiche che bisognava interpretare. Non è che dicevano mai esattamente le cose, ma un po' come adesso, sì, non è molto diverso. No, esatto, e ho la sensazione, leggendo qua e là, che fosse un giro di furbettone, però esattamente come adesso, esatto. Appunto. Allora, per esempio, c'era la famosa Sibilla Cumana, a Cuma, vicino a Napoli, in una zona dove ci sono, come sempre intorno a Napoli, insomma, delle emissioni vulcaniche. Allora, per esempio, si parla del lago Averno, che era lì vicino, che ha una lunga storia di emissione di gas tossici, ci ricorda Kaplan. Periodicamente ne fuoriuscivano in così grande quantità che gli uccelli della zona cadevano stecchiti a causa degli effluvi. Morivano avveleati, ma gli antichi greci non lo sapevano. Il nome Averno viene dal greco aornos, che significa privo di uccelli, e infatti nell'Eneide Virgilio dice: uscia della sua bocca l'aureo un fiato, anzi una peste, a cui volar di sopra con la vita gli uccelli era interdetto. Sono andati a fare tutte queste verifiche e si pensava che l'Averno non avesse queste emissioni, mentre invece dei geologi, non proprio recentemente, ma insomma negli ultimi anni, hanno verificato che effettivamente sotto il lago, come per esempio in alcuni laghi africani, si possono condensare gas tossici e sulfurei, e improvvisamente, per un rimescolamento delle acque, vengono su gli uccelli che passano sopra. Muoiono. Ecco, poi lì tutta la questione è il significato che si dà alla moria di questi uccelli. Sì, però, perché bisognava che fosse un luogo strano dove il peso, no, della Sibilla Cumana stutona avesse maggiore effetto. Ecco, allora io ti parlo di un altro episodio, direi forse ancora più celebre, che riguarda il Mar Rosso. Come sai, insomma, Mosè lì ricevette da Dio il potere di aprire, di dividere le acque. Su questo si è fatto un certo lavoro, ecco, e poi c'è questa geologa, Dorothy Vitaliano, dell'Università dell'Indiana, che ha fatto tutto uno studio su alcuni laghi e ha creato, diciamo, il termine geomitologia per appunto descrivere un lavoro di ricerca di scienza che si cela però all'ombra dei miti. E cosa ha fatto? È andata a studiare un po' la morfologia di alcuni laghi e poi del Mar Rosso, e cosa ha scoperto? Che in effetti in alcuni luoghi, in alcuni laghi particolarmente bassi e sferzati da venti particolarmente forti, esiste questo fenomeno per cui sembra che le acque in effetti si aprano e si veda sotto il fondale. Però ovviamente è una questione puramente dettata dal fatto che le acque sono basse, i venti sono molto forti, le acque un po' si increspano ampiamente e quindi si vede il fondale. Sembra un po' che in effetti le acque questa si aprano. Cosa può chissà aver mai che sia proprio questa la spiegazione di ciò che viene narrato. Oh, si può usare il fegato per predire il futuro, come sappiamo. L'uso dell'interiora per predire il futuro nasce quasi 3 millenni fa in Mesopotamia. Nella versione più antica si concentrava appunto sul fegato. Poi c'erano anche altri organi, ma insomma il fegato andava molto bene. Lo si leggeva ponendo domande binarie, vale a dire con un sì o con un no per risposta, niente di vago. Ci sono stati degli studi comparati per andare a vedere in che cosa consisteva questa visione del fegato, e per esempio un fegato denso era un buon segno di fortuna. Erano considerati positivi anche il colore brillante e una struttura liscia. Al contrario, erano visti come un cattivo segno la vena porta che entra nel fegato, che era bloccato, oppure il lobo caudato ricurvo. Allora Matt Kaplan ha detto: va bene, ma ci può essere una connessione tra il fegato e cose, il fegato come predittore e cose più serie? Lui è andato a interrogare Bruce Rideout, che gli ha detto che è un veterinario, e gli ha detto: allora assolutamente sì, esaminando il fegato di un animale si trovano informazioni sullo stato attuale della sua alimentazione e si potrebbero anche individuare alcuni dati sulle malattie di cui ha sofferto in passato. Quindi quando per esempio in antichità andavano a usare, a vedere il fegato degli animali in una certa zona, questo era molto frequente per costruire il villaggio, e se effettivamente il fegato dell'animale risente di condizioni locali può cambiare, e cambiando dava, come dire, modo per fare le predizioni. Dice: un animale in buona salute ha un fegato compatto, color bruno, medio o mogano, con una consistenza uniforme, bordi ben definiti e privo di lesioni. In un animale che è stato in buona salute ma all'improvviso si è trovato nella condizione di dover metabolizzare il proprio grasso, per esempio perché c'è una carestia, no? Una cosa di questo genere, che quindi appartiene, o anche un altro disastro, all'ambiente, e allora ha un fegato molle di colore giallastro con i bordi arrotondati. Poi non so se loro gli chiedevano anche, certo, non so. Tu lo costruiresti un villaggio dove trovi tutti questi fegati spetasciati? No. No, esatto. Ecco. Allora concludiamo invece con parlando dei veleni. Ecco, tantissimi sono re, regine, imperatori, sovrani che sono stati avvelenati. Tanti. Quindi ci sono tantissimi aneddoti che raccontano di assaggiatori ufficiali che assaggiavano il cibo grande e le bevande lavoro prima del sovrano. Chi segue la serie Il Trono di Spade lo sa perfettamente, insomma, che questa è un'attività molto frequente. E uno dei più celebri personaggi è Mitridate VI, che è re del Ponto, che si dice facesse un piccolo uso di veleno, diciamo, quotidiano per poter essere immune a una quantità eventuale di veleno. Questo perché? Perché era il padre, era stato avvelenato, lui aveva assistito alla morte, quindi non voleva essere vittima dello stesso destino. Si pensa che Mitridate facesse uso di questa pianta, Hypericum perforatum, che è anche conosciuta come erba di San Giovanni. E pensa, una ricercatrice pochi anni fa, un'endocrinologa molecolare, Linda Moore, di una clinica della Carolina del Nord, ne studiò proprio quest'erba, e in effetti venne fuori che quest'erba dava in qualche modo, adesso non, senza entrare troppo nel dettaglio, ma induce l'espressione di un enzima che in effetti rimuove le molecole strane dal sangue, quindi in qualche modo funziona, c'era ti un fondo immune di verità. Ecco, dopodiché consigliamo a tutti, e lo fa anche la Moore, di non ingerire comunque il veleno. Sì, e anche col fegato non andate a vedere delle vecchie ecografie, insomma non, non serve a niente, lasciate perdere. Il libro però è bellissimo, è pieno di aneddoti, tutti così. Scienza del magico, Matt Kaplan, edito da Codice Edizione Le Scienze. Non è magia se noi torneremo qui fra 7 giorni. Oh no, noi siamo qui anche in questo periodo di vacanza, quindi ci vedete qui e ci sentirete qui tra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.